con il regista Umberto Migliaccio per parlare del progetto di crowdfunding per il documentario Magnifiche Sorti e Progressive. Umberto, ben trovato. Ciao, grazie, ben trovato anche Raccontaci un po' di questo progetto. a te. Questo nostro nuovo lavoro è intorno sostanzialmente alla rivoluzione digitale. È un'intervista che abbiamo fatto a Renato Curcio, che negli ultimi anni si è occupato molto degli effetti che la rete e tutti i dispositivi digitali hanno sulla nostra vita, sul nostro quotidiano e dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e anche dal punto di vista politico. E questa lunga chiacchierata con Renato Curcio l'abbiamo girata all'isola di Santo Stefano, l'isolotto di Santo Stefano, presso l'ergastolo, che è questo carcere abbandonato da più di 50 anni che si trova sull'isola, perché diciamo, uno dei concetti importanti per capire un po' gli eventi che stanno travolgendo un po' il genere umano da questo punto di vista è il concetto di Panopticon, e l'ergastolo di Santo Stefano è un proto esempio di carcere Panopticon, e quindi diciamo, attraverso questa metafora raccontiamo un po' quello che avviene a tutti noi ogni giorno praticamente. Com'è nata l'idea? Ma l'idea è nata un po' appunto dall'incontro con Renato, noi diciamo, ci siamo rivolti a lui quasi 2 anni fa ormai, perché stavamo facendo lo sviluppo di un altro progetto intorno agli anni 70, e incontrando lui abbiamo incontrato anche tutta la sua ultima opera letteraria e scientifica. Ci siamo molto appassionati al tema, che poi è un tema centrale rispetto alla nostra quotidianità, siccome c'è una narrazione molto, diciamo, positiva, no? Su quelli che sono gli effetti dell'evoluzione digitale sulla quotidianità dell'essere umano, invece manca, dal nostro punto di vista, una riflessione critica su queste cose qui, e dal nostro punto di vista l'analisi che è nato è molto, molto lucida, e quindi cercare di dargli anche un mezzo, diciamo, come può essere quello del cinema documentario, per essere divulgata, per contribuire per quello che è il nostro piccolo nel dibattito, ci è sembrata una cosa molto interessante da fare. Quali sono le linee guida del suo pensiero rispetto alla rivoluzione digitale? Beh, diciamo che le linee guida sono sostanzialmente, non è una critica di per sé all'uso della tecnologia, cioè non è un'analisi di natura luddista, è una critica, diciamo, molto tradizionale al fatto che queste tecnologie sono proprietarie e quindi, in quanto proprietarie di qualcuno, perseguono uno scopo ben preciso, che è quello poi tradizionale delle strutture totali, cioè le strutture totali, siano esse il carcere, la scuola, l'ospedale, eccetera, eccetera, hanno la finalità di creare individui utili a un certo tipo di società, che in questo caso è, come sempre, la società del capitale, il capitalismo. E per cui quello che a noi sembra un utilizzo, diciamo, neutro della rete è di fatto un utilizzo che ci rende schiavi di una nuova forma di totalitarismo, che è una forma di totalitarismo che va a minare quella che è, diciamo, la base della società umana, che è la comunicazione. Ci sono delle ipotesi di alternativa? Beh, diciamo che nel documentario noi diamo ad Renato da una traccia, però non, perché anche se oggi l'egemonia del pensiero intorno alla rivoluzione digitale, l'egemonia del pensiero positivo intorno a questo mondo è quasi totale, ovviamente, diciamo, sembra complicato pensare a come uscire da questa situazione. Però, come appunto diciamo anche noi, insomma, il probabile è sempre un territorio più limitato rispetto al possibile, per cui è in determinate pratiche che si può trovare un'alternativa e una soluzione rispetto alla situazione attuale. Ci dai tutte le coordinate del progetto di crowdfunding? Allora, sì, diciamo, per sostenere il progetto si deve andare sul sito di Riproduzioni dal Basso, che è, diciamo, il portale a cui siamo rivolti per sostenere questo progetto, e Il progetto si chiama Magnifiche Sorti Progressive, quindi basta cercare Magnifiche Sorti Progressive sul portale di Produzione dal Basso e si può vedere il promo del film che dura circa 4 minuti e mezzo e si può leggere in modo più approfondito più o meno le cose che ti ho detto io poco fa. Quali sono i tempi? E La campagna di crowdfunding finirà il 2 giugno. quindi poi ci sentiremo per gli sviluppi prossimi. Ok. Sì, sicuramente ti teniamo aggiornato. Allora, ricordiamo il progetto di crowdfunding per il documentario Magnifiche Sorti e Progressive. Un saluto e un ringraziamento al regista Umberto Migliaccio. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie mille.